Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Un solo Dio, il Dio fatto uomo al posto di un affollato pantheon di divinità. Un pantheon di esseri viventi, una immensa e ramificata famiglia di animali che include la specie umana al posto di un uomo re del creato. Ecco, in questi modi diversi, per molti aspetti opposti, il cristianesimo e il darwinismo hanno rivoluzionato la nostra visione del mondo. Quali sono stati i fattori storici e culturali che hanno determinato il successo della religione cristiana? E quali, invece, le conseguenze della teoria evoluzionistica sul nostro modo di guardare alla natura e al nostro posto nell'universo? Di questi temi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il menù di oggi. Francia, come si spiega il successo del cristianesimo? Nel libro La Tentation du Christianisme, lo storico Lucien Gerfagnon e il filosofo Luc Ferry indagano nella religione di Gesù. Giappone, il karate sbarca in passerella a Parigi. Due campioni giapponesi hanno sfilato durante la settimana della moda. Germania, possiamo tutto, anche meglio. Una nuova antologia semiseria elenca decine di motivi per inorgoglire i tedeschi. Kazakistan, quando sono stati addomesticati i primi cavalli, una nuova scoperta sposta l'orologio indietro di 1000 anni. India, rischio di estinzione per i gufi. I bracconieri danno loro la caccia per venderli come portafortuna. Spagna, una legge obbligherà a doppiare in catalano il 50% dei film. Si è acceso un fervente dibattito tra gli addetti ai lavori. Come fece Gesù a diventare superstar, per riprendere il titolo di un famoso musical di molti anni fa? E come fece il cristianesimo a imporsi, a emergere in quel mercato delle fedi, in quell'immenso souk di divinità e di riti che era la Roma del primo secolo? È la domanda che si sono posti lo storico antichista Lucien Gerfagnon e il filosofo Luc Ferry in un libro appena uscito in Francia dall'editore Grasset, intitolato La Tentation du Christianisme, la tentazione del cristianesimo. Di questo libro si parla in un articolo sul Figaro. E i due autori appunto ripercorrono quelle che sono state le origini del cristianesimo, soprattutto il primo periodo in cui i cristiani venivano derisi, discriminati, perseguitati, trattati come reietti nella Roma imperiale, come la schiuma della terra, addirittura come dei terroristi pericolosi, perché addirittura gli era stato attribuito la responsabilità dell'incendio di Roma del 64. E si cita per esempio Tertulliano, che diceva, quando si parla di qualcuno, dice: beh, Gaio è una brava persona, peccato che sia cristiano. E questo atteggiamento di disprezzo nei confronti dei cristiani era molto diffuso presso gli autori, gli intellettuali romani dell'epoca, da Svetonio, Tacito, Epitteto, a Traiano, a Plinio il Giovane, e vengono citate questi giudizi nel libro. E le ragioni di questo disprezzo e dell'isolamento di cui erano vittima i cristiani in quel periodo è il fatto centrale, insomma, che la religione cristiana pretendeva di distruggere il pantheon politeista che regnava nella Roma antica, per sostituirla con un unico Dio, il Cristo, figlio di Dio, che sostanzialmente, insomma, si imponeva su tutte le altre divinità, facendole apparire semplicemente come degli idoli pagani. Quindi questo faceva sì che apparissero i cristiani come dei disertori, delle forze forze disgregatrici per l'unità dell'impero, che si basava proprio su questo Pantheon, e oltretutto esponeva anche all'ira degli dei, al rischio di ritorsioni sull'impero da parte degli dei, irati per essere stati così emarginati da questa nuova religione. La religione diciamo dei romani, spiegano i due autori Luc Ferry e Lucien Gerfagnon nel loro libro, era una religione che confinava la ritualità e diciamo il rapporto con gli dei nella sfera o del domestico, della casa o della politica, con un rigore però tutto amministrativo. Si diceva: noi romani abbiamo un rapporto con le divinità, insomma, di un Pantheon che proteggeva l'impero. Però questa concezione della divinità lasciava come un vuoto, come una carenza, una mancanza affettiva e spirituale, che poi veniva colmata con la filosofia. Pensiamo a Marco Aurelio, con lo stoicismo. E proprio questo vuoto, secondo gli autori, è stato la ragione, alla radice del successo del cristianesimo, che poneva, diciamo, l'idea di una trascendenza personificata. Ecco, ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite, che salutiamo, Adriana Destro. Grazie di essere con noi. Io ringrazio da parte mia Gia Berge per l'invito e l'occasione di parlare di questi temi. Ecco, Adriana Destro è docente di antropologia culturale all'Università di Bologna e ha pubblicato anche recentemente con Mauro Pesce un volume intitolato L'uomo Gesù, giorni, luoghi, incontri di una vita, pubblicato da Mondadori. Professoressa Destro, ecco, dal suo punto di vista, dei suoi studi, ecco, come giudica questa ricostruzione, anche se ovviamente sintetizzata come in un articolo di giornale, quindi bisognerebbe leggere il libro per intero, che hanno fatto Gerfagnon e Ferry delle origini del cristianesimo? La convince? Ecco, dunque, sì, io trovo la ricostruzione, anche per la statura degli autori, molto interessante, e in particolare mi sembra che la sottolineatura che viene fatta sulla religione, diciamo, in ambito di stampo privato o di tipo domestico, del me e del noi, dà alcuni spunti importanti. La cultura di Roma avrebbe relegato questo, il senso, il bisogno religioso, in ambiti molto personali e poi appunto amministrativamente, certo, gestiti. Ecco, la conseguenza è, come dicono gli autori, come ha presentato lei stesso, sarebbe questa carenza diffusa di stampo spirituale, di una religiosità romana, che lascia, diciamo così, spazio a un senso di conversione, a una voglia di conversione, a un bisogno di conversione a qualcos'altro, verso diciamo così, una esperienza più completa, più più filosofica. Ecco. Certo. Qui si incontra si incontra il cristianesimo come, dunque, risposta a questo tipo di mancanza. La filosofia, un'arte del vivere, sarebbe il sostituto o il completamento di una certa aspirazione. Ecco, in questo ragionamento dominerebbe un'idea di filosofia valido quasi universalmente, se non proprio universalmente, che forse andrebbe un pochino ridimensionata, o meglio, la filosofia riguarda l'uomo, l'umanità, ma spesso è praticata in modo settoriale, da alcuni settori, è un atteggiamento facilmente cogliibile in senso proprio universale? Questa è un po' esatto, la domanda. Esatto, ma mi pare che se la pongano gli autori stessi, perché sì, dicono che poi alla fine poi la filosofia riguarda un'elite, no? Sì, forse alle radici del successo. Diciamo, noi dobbiamo pensare che la storia di Gesù non è una storia di elite, è una appunto storia di massa, diciamo così, a livello di quotidianità, di contatto diretto tra persone. Ecco, nel libro L'uomo Gesù, insomma, noi abbiamo cercato di rintracciare i dati più concreti, più documentati di una vicenda che coinvolge l'umano, ma l'umano quello proprio proprio in carne ed ossa. Ecco, probabilmente ecco anche una delle ragioni del successo, credo che anche nel vostro libro questo venga evidenziato, insomma, è questo potente messaggio sociale, no? Che siamo tutti figli di Dio, liberi e schiavi, romani e non, no? E quindi in qualche maniera La totalità dell'umanità raccolta all'interno di un stesso disegno, di un disegno complessivo, che può essere riassunto non tanto nella risposta, mi sembra, appunto, a una mancanza, ma a una aspirazione alla giustizia, all'equità, alla soluzione dei problemi veramente universali. Noi ringraziamo la professoressa Destro e a presto. La ringrazio io moltissimo. E andiamo in Giappone, sulle pagine di Japan Today, una corrispondenza da Parigi ci parla di una curiosa sfilata nell'ambito appunto della settimana francese parigina della moda, di uno stilista giapponese, Issei Miyake, che ha fatto sfilare insieme alle modelle alcuni campioni di karate che sono scesi sulla passerella scalciando e gridando e muovendo le braccia nei gesti, insomma, delle arti marziali. Evidentemente, insomma, nel mondo della moda si sta passando dal prêt-à-porter al prêt-à-romper, ma il messaggio probabilmente è un altro: per uscire dalla crisi economica di cui risente anche l'industria della moda, bisognerebbe difendersi da banchieri e finanzieri a colpi di karate. E ci spostiamo in Spagna, sulle colonne del País, c'è un dibattito sulla possibilità di tradurre e di doppiare i film spagnoli in catalano. È una delle conseguenze, insomma, dell'autonomismo orgoglioso di questa regione, di questa regione autonoma che mira sempre di più a rivendicare la propria identità linguistica, e ci sono vari interventi a favore e contro questa proposta. Alcuni fanno osservare che sarebbe meglio invece lasciare i film in lingua originale, anche perché è un ottimo veicolo per far apprendere le lingue straniere agli spagnoli. Altri invece notano che comunque, insomma, il catalano è una lingua a tutti gli effetti e non un semplice dialetto. Ecco, speriamo soltanto che coi tempi che corrono a qualcuno in Italia non venisse in mente di doppiare i film di Totò o di Troisi in veneto o in bergamasco. La finestra sul cortile. Siamo nell'anno di Darwin e si moltiplicano gli studi, le ricerche, i contributi sui rapporti tra uomo e animali, e in particolare un libro che è appena uscito in America da Random House, firmato dalla scrittrice, giornalista e naturalista Anna Holmes, intitolato The Well-Dressed Ape, ci riporta, insomma, ai problemi legati al nostro rapporto con le altre specie. The Well-Dressed Ape, cioè sarebbe letteralmente la scimmia ben vestita, sarebbe per l'appunto l'uomo. L'uomo che fino a prima di Darwin si considerava al vertice di una gerarchia del mondo naturale e con tutti gli altri esseri viventi sotto di lui, e che invece, insomma, si è ritrovato sempre di più come semplicemente una delle tante specie in cui si articola l'albero genealogico della vita, in cui ci sono anche altre specie oltre all'uomo che rivelano talenti e complessità che rivaleggiano con noi. In questo libro, che viene recensito in particolare da Natasha Mitchell sul quotidiano australiano The Australian, praticamente lei cerca di capire quali sono le differenze, in particolare le peculiarità della nostra specie. Per esempio i comportamenti sessuali, la monogamia, che su 1154 culture umane descritte dagli antropologi soltanto 100 praticano la monogamia, il che è già questo è una cosa abbastanza curiosa che dovrebbe farci riflettere. Anche il fatto che mentre gli animali hanno soltanto alcuni momenti di fertilità, le femmine degli altri animali, invece gli esseri umani possono accoppiarsi in qualunque momento, e accoppiarsi e anche riprodursi. Però ci sono tanti altri comportamenti che sono, se vogliamo, contraddittori, cioè nelle nostre cellule, nella nostra storia evolutiva c'è spazio per l'altruismo, ma anche per la xenofobia, per la socializzazione, ma anche per l'infanticidio, e quindi, voglio dire, è difficile collocare l'uomo al vertice delle creature quando si scoprono tutte queste contraddizioni, senza contare poi gli equilibri ecologici, scrive ancora Anna Holmes, che per esempio, parlando di una specie come la lontra marina, che quando non viene divorata dalle orche, a sua volta mangia, si nutre di ricci marini. Quando questi ricci marini non sono controllati nella loro crescita dalle lontre marine, mangiano tutte le foreste sottomarine di alghe e quindi depauperano la flora e la fauna marina, un habitat molto importante per i pesci. Allora, tutto questo equilibrio ecologico dall'uomo non viene rispettato. Le abitudini dell'uomo, soprattutto dell'uomo sviluppato, sono contrarie a questi equilibri. Però l'uomo ha avuto anche una importanza nell'allevare e nell'addomesticare gli animali. E un'altra notizia pubblicata dall'Australian ci rivela che degli scienziati, degli archeologi nel deserto del Kazakistan hanno scoperto che c'erano delle tribù che già allevavano i cavalli e li addomesticavano 5.500 anni fa, cioè 1.000 anni prima di quanto finora si è ritenuto. Ecco, ma su questi temi vorremmo discutere con un ospite che accogliamo in trasmissione con piacere e ringraziamo di essere con noi. Grazie Ambra Orfei, benvenuta. Grazie a voi, ciao Riccardo. Ambra Orfei è acrobata, cavallerizza, artista TV e produttrice TV. Ecco, questo è in questo momento è produttrice nel campo dello spettacolo e soprattutto figlia d'arte di una delle famiglie circensi più famose d'Italia. E quindi con gli animali ha avuto una dimestichezza fin da bambina. Ecco, come... cosa le hanno insegnato da piccola? A guardare gli animali dall'alto in basso e a comandarli col frustino, oppure a trattarli come dei colleghi di lavoro, diciamo, dei collaboratori da rispettare? Dunque, a differenza di molti che potrebbero pensarla diversamente, cioè quindi di trattarli col frustino, no. In realtà al circo si vive con gli animali, si convive, si lavora insieme, quindi diventano dei veri e propri compagni di lavoro. E a volte ci si sofferma a osservare il comportamento degli animali con cui si lavora, perché molte volte si apprendono molte cose in più di quelle che in realtà noi potremmo fare. Quindi grazie al fatto di aver vissuto per tanti anni con gli animali posso dire a volte di riuscire anche nella mia vita, sì, nei rapporti con le persone, a cavarmela meglio, perché agisco distinto e soprattutto imparo a rispettare le cose. Certo, ecco, ma quali animali in particolare è legata? I cavalli, immagino, soprattutto. Ho lavorato prevalentemente con i cavalli, perché in famiglia, quindi papà Nando, mamma Anita, poi io ho due fratelli, Paride e Gioia, insomma, in casa nostra siamo tutti cavallerizzi, quindi diciamo che mamma mi ha messo a cavallo quando avevo 5 anni. Accidenti. Di conseguenza, ecco, non mi ricordo neanche forse quando ho imparato ad andare a cavallo. Ho vissuto sempre con loro, ma poi a parte i cavalli, papà è addestratore di tigri, quindi era facile per noi parlare in casa del comportamento della tigre piuttosto che di qualsiasi altro animale come l'elefante, quindi certo. Diciamo che ho lavorato con i cavalli, ma ho avuto l'onore e la fortuna di crescere vicino a altre specie di animali molto intelligenti che mi hanno insegnato tante cose. Ecco, lei parla di intelligenza animale, che spesso si vedono al circo, ma anche in altre occasioni, anche negli zoo, eccetera, cavalli o cani che sanno contare, scimmie che sanno usare degli utensili, eccetera. Ecco, lei pensa che siano vere e proprie forme di intelligenza o semplicemente si abituano a ripetere degli esercizi così in maniera un po' meccanica? Dunque, sui primati, quindi sugli scimpanzé, no, assolutamente no. Lo scimpanzé è un animale molto intelligente che inizia con il copiare le cose, però cerca di capire. E quindi per me già il fatto che un animale cerca di ragionare su un'azione già è un sintomo di grossa intelligenza. Questo lo fanno gli scimpanzé, ma soprattutto anche gli elefanti. I cavalli un pochino meno, però sì. Questo non vuol dire che non siano intelligenti, cioè cercano comunque di trovare delle soluzioni più veloci per raggiungere il loro scopo, tipo riuscire a aprire la porta per uscire dal box, spostare il secchio dell'acqua per averlo più vicino, piuttosto che altre piccole cose che comunque determinano una propria intelligenza che comunque ogni animale ha. Quindi chi pensa che gli animali non ragionino, che non abbiano una propria intelligenza, è veramente un po', ecco, ignora che cosa può esserci all'interno di un essere vivente che non sia l'essere umano, insomma. Ecco, bene, bene Ambrofei, quindi insomma se siamo delle scimmie ben vestite dovremmo comunque deporre un po' della nostra superbia. Grazie. Sicuramente. Allora un saluto e grazie a Ambrofei. Grazie a voi e arrivederci a tutti. Allarme per i gufi in India. Queste specie di uccelli notturni sono vittime di cacciatori di frodo e bracconieri che li rivendono ai privati o a sette religiose che ne fanno degli usi più vari, pratiche occulte, riti tantrici. Si ritiene, secondo alcune superstizioni indiane, che portino la ricchezza e la fortuna, e addirittura in alcune zone dell'India si ritiene che gli occhi di gufo aiutino a recuperare la vista. Ma purtroppo con questa strage si danneggia l'agricoltura, perché i gufi controllano per esempio roditori e altre specie di animali che distruggono i raccolti. Beh, se volessimo trasferire questi rituali in Italia, al ministro Tremonti, che accusa gli economisti e gli industriali di essere dei corvacci, si potrebbe rispondere regalandogli un bel gufo portafortuna. E adesso andiamo in Germania, dove Walter Kremer, professore di statistica economica e sociale all'Università di Dortmund, ha scritto un'antologia semiseria che elenca decine di motivi per inorgoglire i cittadini della Repubblica Federale. Tra birra, Birkenstock e Berliner Philharmoniker si affiancano le voci sulla disciplina, l'ispettore Derrick, il motore a diesel, passando per le favole dei fratelli Grimm, la tutela dell'ambiente e il cosciotto di maiale. Tutti motivi dignitosi e perfino condivisibili, che però appaiono scelti soprattutto a casaccio. Ma tra i talenti dei tedeschi non c'era anche quello di organizzare ogni cosa in maniera impeccabile? E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Giorgio Mattei in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.